cantare col ritmo nel cuore, che gioia trovare un po' di ispirazione. Credetemi amici, non basta l'amore, per essere felici ci vogliono canzoni. Ritmi allegri in quantità, vorrei sempre cantare, mi diverto a improvvisare, che gioia cantare col ritmo nel cuore, che gioia trovare un po' di ispirazione. Soltanto se canto il cuore contento, che piacere, oh che passione, io sento sempre nel mio cuore. Che gioia cantare col ritmo nel cuore, che gioia trovare un po' di ispirazione. Soltanto se canto il cuore contento, oh che piacere, oh che passione, io sento sempre nel mio cuore, che gioia cantare.